dando prove tecniche di trasmissione sulla... andandoci un po' a gustare tre vecchi brani dei Current 93 di David Tibbet. Happy Birthday Pigves Christus, A Sad Sadness Song e Gothic Love Song. La produzione acustica, le ballate maledette di Current 93, direi immortali, e che toccano sempre corde assai profonde. Ma come sentite, poi veniamo alla strettissima attualità e quindi prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 1 gennaio 2020. Un programma che entra nel suo 28esimo anno di vita. Iniziamo in due nel lontano settembre 1992, ormai da solo dal 94, se non ricordo male. Il sito della radio è www.ondarossa.info, il telefono è 06 49 1750. Ricordo ancora una volta, è iniziato il radio abbonamento 2020, al quale vi invito caldamente di partecipare per questa realtà completamente autogestita da sempre e libera anche nelle sue espressioni culturali, compresa la musica stessa. Quindi, andando sul sito della radio, c'è il banner specifico, si clicca dentro e si aprono le vaste possibilità di adesione a questa campagna che andrà avanti per qualche mese. 30 euro per 1000 ascoltatori è una iniziativa che anche l'anno scorso ha raggiunto un ottimo risultato.